Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Anche le professioni, non solo i brand e i prodotti, si misurano con il loro modo di essere presenti nell'immaginario collettivo. Oggi ve ne raccontiamo una che sta guadagnando un nuovo posizionamento molto più green di quanto si immagini. Ve la raccontiamo tra pochissimo. Ha una storia millenaria che inizia in Cina, è diventato materiale di tendenza nell'arte e nel design, focus sui trend dedicato alla porcellana. E poi siete stati contagiati anche voi dalla Korean Wave, effetto Parasite, quando la Corea del Sud fa tendenza. Scelgo le spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin. Oh, è proprio nero da far paura lassù. Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Parliamo proprio di loro, degli spazzacamini, una professione molto più attuale di quanto si immagini. Noi lo abbiamo fatto a Progetto Fuoco, la più importante fiera di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna, che si è chiusa ieri a Verona. Lì abbiamo incontrato Gianfranco Borsatti e Massimo Pistolesi, presidente e vicepresidente di ANFUS, Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini. Abbiamo parlato anche di pizza, scopriamo perché. La professione dello spazzacamino oggi, diciamo, è orientata verso la manutenzione e la pulizia delle canne fumarie, quindi è più che di attualità, in quanto con le ultime disposizioni normative, ma soprattutto anche con queste informazioni sulla limitazione dell'uso delle stufe e dei camini per le PM10, le polveri sottili, una canna fumaria ben manutentata e pulita riduce fino all'80% di queste emissioni. Come è cambiata la professione in questi anni? Lo chiedo a Pistolesi. Che attrezzature si usano, ma vanno ancora sui tetti gli spazzacamini? Sì, è un dato importante, non trascurabile. Diciamo che le attrezzature si sono evolute di pari passo al mercato. Il mercato è diventato molto importante, tant'è che ci sono, credo, le stime ultime 11 milioni di impianti a biomassa, per cui questi 11 milioni richiedono di professionisti sia per l'installazione ma anche per la manutenzione e il mantenimento, senza considerare il parco dei vecchi, chiamiamo così, apparecchi, che è enorme e grazie agli incentivi può essere rinnovato. Quindi il mercato è importante, i corsi di formazione vengono fatti costantemente e gli apparecchi sono molto evoluti. Il nome spazzacamino, il nome fumista è il vecchio mestiere, però c'è stata un'evoluzione molto importante, ecco. Quali sono gli impianti più complicati, più complessi da ispezionare e da mantenere? Beh, l'attività dello spazzacamino varia e spazia in tutti i settori dove c'è un'evacuazione dei fumi, quindi si può partire dalla semplice stufetta a legna al più sofisticato sistema industriale di evacuazione appunto dei fumi. Lo spazzacamino più tradizionale è quello che va nelle case, sottolineo, dei privati, e non solo pulisce la canna fumaria, ma dà anche i consigli che noi chiamiamo le buone pratiche ai cittadini, ai fruitori di questi apparecchi, e gli spiega come accenderlo, perché sembra una banalità, ma solo accendere il caminetto in un modo sbagliato aumenta a dismisura l'inquinamento che lui fa poi in canna fumaria. Quindi i nostri operatori sono anche degli informatori per il privato, spiegandogli appunto questi sistemi per migliorare sia la combustione ma anche l'ecologia. La formazione è alla base comunque sempre di tutto, la formazione e l'informazione. Fare un bel lavoro significa anche dare un'ottima informazione e fare un collaudo, e come diceva giustamente il Presidente, l'accensione semplice di un caminetto, di una stufa a legna, se si accende con il fuoco dall'alto, quindi attivando una combustione subito pulita non facendo tanto fumo, si abbatte del 50% le polveri sottili. Questo fa parte nel nostro percorso formativo delle buone pratiche. Tant'è che siamo partner con Città Metropolitana di Milano per il progetto così chiamato Metro Pizza. Abbiamo stabilito delle buone pratiche collaborando con i vari tecnici anche dell'Enea, dalla sicurezza al risparmio energetico all'impatto ambientale, passando per una fase semplice tutto sommato, che è un fatto di cultura e di abitudine. Una cosa importante alla quale stiamo lavorando è la tracciabilità della legna, perché tutti si chiedono, mentre il pellet è già ben normato, la tracciabilità della legna anche questa, ma è un po' un far west, per cui se noi andiamo a mangiare una bella pizza, guardiamo il menu e vediamo gli ingredienti, scegliamo la pizza, ma con quale legna viene cucinata? Ce lo domandiamo. Quindi noi siamo promotori di un percorso di tracciabilità e vogliamo arrivare a mettere la legna sul menu. Una carta della legna? Assolutamente sì, una carta della una legna. Una garanzia di qualità, perché non dimentichiamocelo, la combustione poi a seconda del materiale che viene usato va ad impattare sull'alimento che stiamo cuocendo. Certo, perché se lei vede anche queste pizze un po' bruciacchiate, sono cose che poi noi mangiamo, quindi sapere che quella legna proviene da una certa filiera, da un certo bosco e da una certa qualità è importantissimo. E non è un prodotto secondario che è stato trattato, certo, con vernici, deve eccetera. Essere vergine al 100%. In questo momento è aumentata la mole di lavoro. Leggevo anche di un ritorno nella dimensione domestica delle cucine a legna, ad esempio. Sì, diciamo che grazie anche a tutta l'informazione relativa alla cucina, non solo i forni elettrici, ma tanti preferiscono andare anche sulla cottura della legna. E a tal proposito, anche in questa storia qui, noi come associazione ci siamo, diciamo, adoperati, stiamo prendendo dei contatti con una università delle scienze gastronomiche per fare un percorso di studio sulle varie peculiarità che può avere un'essenza di legno anziché un'altra nel cucinare in un modo o anziché in un altro. Quindi da una parte facciamo degli studi per le emissioni in atmosfera e abbiamo dei gruppi di lavoro, e dall'altra facciamo una ricerca scientifica proprio in virtù di arrivare a mettere la legna sul menù per dare certe risposte al consumatore, e penso che poi possa fare un pochino piacere a tutti. Insomma, non so, se uno ha a che fare una grigliata con del ginepro, ha un aroma, ecco, anziché farlo con un legno totalmente diverso, magari che abbia le vernici. Ci sono anche delle vere e proprie archistar che lavorano per il settore. Stufe e caminetti in certi casi diventano gli elementi caratterizzanti di un ambiente, che sia la cucina, il living o il salotto. Andrea Ferro ha intervistato Michael Geldmacher. Io sono un designer lavorando soprattutto nel mondo del mobile, e quando la MGZ mi ha chiesto di pensare su una stufa, un concetto della stufa, una stufa per MCZ, ho preso tutta la mia ispirazione da questo mondo, il mondo del mobile, perché una stufa per me è piuttosto un mobile che una macchina o un riscaldaio. È qualcosa che si trova normalmente nel salotto o in un appartamento, e così dovrebbe essere trattata come un mobile, penso. Calore, luminosità, quali sono gli elementi che in qualche modo hanno diretto la sua fantasia? Ma ho fatto una grande ricerca, perché questo mondo è nuovo per me, e la ricerca mi ha mostrato che la fiamma o il barlume della fiamma mi sembrava più importante che la fiamma se stessa. E così il mio concetto era di non mostrare la fiamma direttamente, ma mostrare e fare un'enfasia sul barlume piuttosto che sulla fiamma. E così volevo creare o dare la possibilità della fantasia, che il barlume evoce immediatamente pensieri della sicurezza, del caldo, come una grotta. Ecco, si dice che le case moderne emanano poco calore, chiaramente non in termini termici, ma in termini, diciamo, di atmosfera. Secondo lei è così? Ah, dipende dallo stile del proprietario dell'appartamento, direi. Ci sono qualche che sono molto molto puliti, molto semplici, molto bianco, molto ridotti, e altri sono da un stile più ricco. Questo dipende, ma io penso che una stufa dovrebbe esprimere una certa qualità emozionale piuttosto che una qualità tecnica. E la casa del futuro, il concetto della sostenibilità è centrale, ecco, come immagina la casa degli anni a venire? Ma idealmente non ci sarebbe nessun oggetto, perché oggetti o prodotti non servono all'ambiente, la produzione di quegli oggetti non serve, ma come questo non è molto realistico, direi che aumenta il valore del pensiero ambientale. Ambientale, sì, certo. E penso che se un'azienda non si occupa di questo tema, sarebbe molto difficile nel futuro per questa azienda. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte continueremo a parlare di design con un materiale antichissimo che trova spazio nei progetti più attuali, tra pochissimo. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie, in bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica, ogni domenica alle 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Essere e avere. Ma io voglio venire con te. Vuoi? No, sei solo una bambina. Sono meno delicata di quanto pensi. Ascolta, c'è una regola nel mondo dello spettacolo: mai lavorare con bambini o animali. La risposta è no. Focus sui trend. Non solo piatti e statuette, ceramica e porcellana trovano spazio nei progetti più all'avanguardia nel mondo del design e dell'arte. Li ha selezionati per noi Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Iniziamo da una mostra che esalta le origini di questo materiale, questa lavorazione, origini che non possono che parlare cinese. È la mostra del momento, per chi vive a Milano, facile da visitare alla Fondazione Prada. The Porcelain Room, la stanza della porcellana, include importantissimi pezzi di porcellane, oggetti fantastici realizzati tra il XIV e il XIX secolo. Ecco, l'esposizione esplora il contesto storico, la finalità e l'impatto delle porcellane cinesi da esportazione, che dimostra così l'efficienza dei produttori cinesi nel intercettare le domande e la sensibilità del mercato. Durante la dinastia Ming, dal 1368 al 1644, l'attività di esportazione divenne sempre più importante, inizialmente con le affascinanti porcellane Celadon e blu smaltate. E quando gli europei iniziarono a commissionare e commerciare le porcellane per esportarle in Occidente, queste divennero i primi prodotti venduti in tutto il mondo, un best seller. Da aggiungere che è anche molto strategica la scelta di allestire The Porcelain Room in uno degli spazi della Torre, perché è la parte che ospita la selezione di opere della collezione Prada. Così passano anche un messaggio importante, che c'è un dialogo tra l'antico e il contemporaneo. Da Milano a Miami, con un'installazione incredibile, trovate le immagini come sempre sulla nostra pagina Facebook. Di cosa si tratta, Lucia? Sì, è davvero affascinante questa installazione. Per celebrare la 8ª collaborazione con Design Miami, la Maison de Champagne Perrier Jouet ha invitato il designer Andrea Mancuso a reinterpretare il patrimonio Art Nouveau della Maison. Questo progetto meraviglioso, che si chiama Metamorphosis, è una scenografia. Andrea Mancuso ha lavorato insieme ai ceramisti italiani Alessio Sari e Nuove Forme e ha messo in scena, per fare veramente una installazione di effetto, 11.000 pezzi in ceramica che ricordano le bottiglie che maturano nelle cantine. Inoltre, cioè, ha scelto una tavolozza cromatica assolutamente incredibile che ricorda proprio i colori del vigneto per Jésus durante la vendemmia. Perché sono utilizzati come rivestimenti 3D, quindi sulle pareti, sul soffitto. Ora in Australia, per un'installazione altrettanto spettacolare, anche questa con un impatto visivo notevole. Un progetto veramente poetico. Nella National Gallery of Victoria di Melbourne, la mostra personale dell'artista nato in Cina, super eclettico, Chai Guo Chang, si conosce in tutto il mondo per le sue opere realizzate con fuochi d'artificio, infatti è stato in Italia molte volte. La mostra di cui stiamo parlando si intitola The Transient Landscape. Si tratta di una collezione di opere ispirate alla storia e all'arte tradizionale cinese. Comprende varie opere come l'installazione Terracotta Warriors, una selezione di statue dell'esercito di terracotta, include anche una installazione site specific di un enorme stormo di uccelli, 10.000 uccelli di porcellana, piccole sculture dettagliatissime, tinte di nero, che sono appese dal un soffitto in una stanza enorme, cioè lo spettatore veramente ha l'occasione di ammirare questa miriade di uccelli in porcellana e che nel loro insieme creano dei motivi a spirale. La porcellana può anche diventare un materiale improbabile per un oggetto, un prodotto inaspettato, una bicicletta, e non è un'installazione questa, diciamolo subito. È un prodotto straordinario realizzato per un appassionato ciclista, è una bicicletta sui generis custom made, perché chi ha commissionato il progetto è anche un collezionista di biciclette, è anche molto ricco. Ha chiesto a Festka, che è un'azienda di biciclette importanti, di creare una bicicletta per lui, e questa bicicletta Spectre è un capolavoro che dimostra l'amore del proprietario per la porcellana e anche il ciclismo. Il direttore artistico di Festka, l'azienda, ha coinvolto Michal Bacak, che è un illustratore ceco famoso per la sua capacità di lavorare nei minimi dettagli. L'illustratore ha impiegato 13 mesi per completare l'intero progetto, dove il focus è il telaio della bicicletta. È coperto con disegni ispirati all'arte della ceramica, in cui l'illustratore usa un mix di tecniche diverse e li applica sul telaio. Perciò abbiamo lo stile decorativo di ceramica portoghese, l'azulejo come ispirazione, ma anche il Blue Churchill Blue Willow, la tecnica di ceramica inglese. Il telaio è rigorosamente disegnato a mano in blu cobalto con dettagli in oro 24 carati, un progettino diciamo abbastanza premium, e sembra tutto apparentemente fragile, nonostante le apparenze, bisogna sottolineare questo, il telaio della bici è realizzato in fibra di carbonio e funziona come qualsiasi altro modello progettato da Festka, ad alte prestazioni e per essere usata da un vero appassionato ciclista. Bisogna vederla. Chiudiamo con un progetto artistico molto singolare, un'idea, un messaggio efficace, tutto al femminile, raccontaci. Sì, è una grande metafora, perciò bisogna raccontarlo bene. Helena House, giovane artista francese, cresciuta, vive a Parigi, è nota per i suoi disegni fatti con la penna, estremamente dettagliati, né con l'abiro. Recentemente però l'artista ha cominciato ad sperimentare con la scultura e l'arte della ceramica. Uno dei suoi progetti più noti in porcellana si intitola Hell Hath No Fury. È difficile fare la traduzione, io ho trovato varie interpretazioni, però quella che mi piace di più sarebbe in italiano: persino l'inferno trema davanti. E quello la dice tutta, perché vi spiego, si tratta di una collezione di armi fatti in ceramica. Sono davvero sorprendenti. realizzati in porcellana, come dicevo, ma anche una rappresentazione della forza interiore dell'essere donna in contrasto con l'apparente fragilità. Ecco, l'artista ha progettato questi oggetti non convenzionali, armi, sono delle armi, tra cui una granata, una mazza da baseball, un'ascia, ma in pieno stile decorativo ceramica blu di Delft, quello che, per dire, tipicamente si trova su piatti e stoviglie, quelle delle nostre nonne. Dei servizi da tè, per intenderci. Gli oggetti della collezione sono appuntiti, pericolosi, ma coperti di dettagliate composizioni floreali, motivi botanici, tutto finemente dipinto. E una netta contrapposizione tra fragilità e aggressività. Veramente una metafora incredibile. Lucia Cromesca, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Sono ricchi, ma anche gentili. Sono gentili perché sono ricchi. Dico sul serio. Primo film straniero non in lingua inglese ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior film, Parasite è il titolo del momento, tornato in sala tra l'altro proprio per il successo hollywoodiano. Partiamo da qui per la riflessione finale con il sociologo dei consumi Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Come ha scritto Saviano, dopo la vittoria di Parasite nulla più sarà come prima, nel senso al di là appunto di questa primizia di un film non americano, ma soprattutto un film che ha sia come temi che come linguaggio un'identità che è lontana anni luce dal classico film da Oscar, quindi davvero un'apertura al mondo e davvero una grande dimostrazione, io credo, anche di cambiamento in una certa America da questo punto di vista. Centrale il tema della differenza di classe, non dimentichiamocelo, quest'anno anche il premio Nobel dell'economia è andato a tre economisti che hanno introdotto il metodo sperimentale nella lotta alla povertà, nella misurazione scientifica. Quello della disparità è un tema che sta diventando centrale. Sempre più centrale e sempre più legato anche all'attività di aziende che non sono necessariamente coinvolte, no? In questa dimensione parliamo di consumi anche quotidiani, ma ormai la sensibilità nei confronti della disparità e quindi il bisogno di inclusione, ad esempio nel mondo della moda, che sinceramente fino all'altro ieri non era interessata al tema, sta invece diventando prioritaria e quindi vanno a cambiare le visioni, le strategie e anche le tattiche delle aziende. Altro aspetto, il successo di Parasite traina la cosiddetta Korean Wave, tutto quello che arriva dalla Corea del Sud in questo momento fa tendenza, dal cinema alla cucina, dalla cosmesi alla musica. Eh sì, forse il rompighiaccio è stato il famoso Gnam Gnam Style e poi da lì noi che lavoriamo anche con colleghi coreani anche qui a Milano, ecco, devo dire che sta emergendo forse in ritardo questa straordinaria forza che loro hanno e che è sia etica che estetica, cioè è un modo di pensare e anche di esprimere, che sono anche una forza nei linguaggi, per esempio in Parasite, che da noi spesso abbiamo confuso con la Cina o col Giappone, invece la Corea ha proprio tutta una storia a sé stante ed è molto interessante approfondirla. Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia da Verona, Valeria Bernardi da Milano. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.